Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. We'll be right back. piacere, ti prego. Torna a casa, ti aspettiamo. Mamma, nessuno ti chiederà niente. Promesso. Il villaggio di Holcomb si trova sulle alte pianure di grano del Kansas occidentale, una zona desolata che nel resto dello stato viene definita laggiù. Un centinaio di chilometri a est del confine del Colorado, il paesaggio con i suoi duri cieli azzurri e l'aria limpida e secca ha un'atmosfera più da Far West che da Middle West. L'accento locale ha pungenti risonanze di prateria, una nasalità da bovari e gli uomini, molti di loro, portano stretti pantaloni da cowboy, cappello a larghe tese e stivali con tacchi alti e punte aguzze. Il terreno è piatto e gli orizzonti paurosamente estesi. Cavalli, mandrie di bestiame, un gruppo di silos bianchi che si elevano aggraziati come templi greci, sono visibili parecchio prima che il viaggiatore li raggiunga. Questo era l'incipit di A sangue freddo di Truman Capote. Siamo proprio nel mezzo della seconda parte del volume numero 3 di Eclettica. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni, ancora per questa settimana, fra le 19 e le 20. Poi la prossima fra le 20 e le 21, da lunedì al giovedì, e poi in un orario ancora da stabilirsi, nella 24 ore non stop in edizione speciale, un'Eclettica in edizione speciale, poi dal 31 maggio. Si tira giù la saracinesca di questa radio e poi vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Giulio@rockfamily.it per il futuro, questo è l'indirizzo, www.rockfamily.it per il futuro, questo è il sito. Per quanto riguarda la musica, nell'ordine vi siete ascoltati KK and His Wet Underground, poi The Heavenly States e infine gli LCD Sound System con Big Ideas, l'inedito che è arrivato a noi grazie alla colonna sonora del film 21. E rimaniamo a New York City in quanto ci ascoltiamo un brano di una band che già nei mesi scorsi di questa stagione era passata all'interno di Eclettica, ma che da un po' che manca e soprattutto non è mai passata con questo pezzo. Sto parlando dei My Best Friend, questa è Maniac. We'll be right back. salsa preferita, con i pomodori. Non era cambiato niente, eppure dentro di me lo sapevo. Niente sarebbe più stato come prima. Discutemmo di tante cose. I miei rispettarono il mio desiderio e non fecero domande su Vienna. Mi sentivo quasi a disagio e allo stesso tempo non potevo impedirmi di pensare che l'incubo era passato. Forse il futuro sarebbe stato più roseo, ora che la guerra era cessata. La guerra è finita, certo. Però adesso è quasi peggio. La gente non sa neanche più perché ci sono stati 8 anni di guerra. Abby, lasciala respirare. È appena arrivata. No, no, mamma, sto bene. Zaka. Nel 1913, quando Anthony Patch aveva 25 anni, erano già passati 2 anni dal momento in cui l'ironia, lo spirito santo di questi ultimi tempi, era, almeno teoricamente, calata su di lui. L'ironia era l'ultimo tocco alla lustratura di scarpe, l'ultima carezza della spazzola dei vestiti, una specie di ecco intellettuale. Tuttavia, sul limitare di questa storia, egli non è ancora andato oltre lo stadio della consapevolezza. Questo era l'incipit di Belli e Dannati di Francis Scott Fitzgerald. 1, 2, 3, 4, 1, 2. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. La la la. Eclettica, ultima stagione, penultima settimana, volume numero 3, indice, Sunny Day Sets Fire, Reid Masher, le luci della centrale elettrica, The Radio Department, The Felicity Brothers, Drink Up Buttercup, KK and His Weathered Underground, The Heavenly States, LCD Sound System, My Best Fan, Devastations, Brad Brick. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.